Radio Wombat. E buonasera amici ascoltatori di Radio Wombat e in particolare di 8 Hertz, che è la trasmissione di ogni mercoledì sera alle 21. Stasera iniziamo più tardi perché come al solito quando ci sono le cose un po' diverse ci sono anche da allacciare più cose a livello tecnico qua in regia, che siamo molto poveri, e si apre un po' si aprono delle puntate all'interno di 8 Hertz che non credo siano successive, cioè a cadenza settimanale, ma quando fondamentalmente ho voglia e quando ci sono gli amici, in cui si fanno delle sperimentazioni vere e proprie anonime, quindi non si sa chi suona, così per non dare peso all'artista, ma per dare peso proprio alla sperimentazione, senza che ci sia bisogno di fare brani, di aver preparato qualcosa, quindi improvvisazione totale e proprio ricerca e studio degli strumenti, che possono essere qualsiasi, prevalentemente elettronici o elettroacustici, e appunto è anche un'estrema libertà, per cui non prendete queste puntate come qualcosa da criticare, come dire, ma questi non sono pezzi, ma qui che è una palla. Sì, saranno tutte robe fallose, robe pesanti, però con uno scopo ben preciso. Spero che anche l'ascoltatore rimarrà quantomeno interessato e con in testa la possibilità, anche nel proprio della sua camera, del suo studiolo, di fare cose simili o differenti, ma farle, insomma. Siamo quasi pronti stasera. In ogni caso utilizzeremo macchinette che non sono così costose, sono poche, anche perché è difficile qua in radio imbastire proprio un set veramente serio, però seria è la nostra imposizione nei confronti del suono e, appunto, ripeto, della sperimentazione. Ok, partiamo, noi ci risentiamo ogni tanto. Questa è Radio Wombat e questo è 8 Hertz. Buon ascolto. Thank you. We'll be right back. sei su Radio Wombat e questa è 8 Hz, la rotella volume 1. E vi segnalo intanto, mentre i deliri continuano, gli appuntamenti di questo fine settimana. Venerdì 24 novembre c'è cioè il quinto compleanno dell'occupazione di Viale Corsica, alle ore 17 live painting e musica, alle 20:30 apericena più gara di torta a premio, alle 22 il concerto con i Benci più gli Alphatech e a seguire il DJ set di DJ Setfield. Sabato 25 alla Polveriera, aperitivo benefit del collettivo SAM dalle 19 alle 23:30 e domenica all'Emerson dalle 10 in poi fino alle 19 c'è un laboratorio per costruire il corteo No Inc, No Aereo del 2 dicembre. Dalle 13:30 in poi c'è il pranzo e poi alle 4, alle 16 l'assemblea. Vi voglio ricordare che il palinsesto nostro si sta aggiornando, ci sono i programmi nuovi, ci sono i programmi classici e ci siamo. E intanto noi proseguiamo qua in questa stanzina all'oscuro con queste cose, speriamo che vi piacciono. Scriveteci appunto le vostre impressioni su postawombat@insiberia.net. Seguiteci sul sito con tutte le novità, che lo conoscete, si chiama wombat.noblogs.org, il Twitter e il Facebook, insomma tutti i social fighetti dei giovani. E basta, noi continuiamo imperterriti. E intanto vi do la buonanotte, poi chi lo sa, magari ritorno, magari no. Radio Wombat, viva il Wombat, viva la radio, 8 Hz.